Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:10 minuti e riparte una puntata nuova dei Funamboli. Dopo una serata rilassante, Veronica. Kalinic! Nikola Kalinic con l'esterno fa 4-1. No, perché sai, seguivo il tuo consiglio e leggevo questo poeta croato, Nikola Kalinic. Bello, sì, hai fatto bene. Nikola Kalinic con l'esterno. Lo vedi, che i miei consigli portano bene. Tu leggi la letteratura croata, leggi quella argentina e poi anche quella giapponese talvolta e si possono avere risultati diversificati. Devo dirti che io in questo momento, sempre sul filone letterario, sto leggendo questo invece autore nostrano che si chiama Lotito. Lotito, mamma mia, ragazzi. Allora, no, io non so se vi siete resi Anna conto. Anna Karenina impallidisce. Ieri abbiamo parlato a lungo, Lotito è stato ospite anche qui a 24 mattino di Luca Telese e Oscar Giannino, ma non so, cara Veronica, se 24 ore dopo abbiamo, come dire, ci siamo resi conto di quando parlavo di un pizzico di ipocrisia. Forse dovevi togliere la parola pizzico. C'è stato un qualche qui pro quo, come dire. Esatto, di tutta questa vicenda grave e che è finita un po' all'italiana. Oltretutto non so burletta. Se sia vero, ma sembra che ieri sera si sia confuso, abbia fatto una gaffe, intervistato credo a Matrix e abbia detto invece di andato a rendere omaggio in una sinagoga, in ha una detto moschea, in una moschea. Sì. Certo, con Nicola Porro che ha dovuto correggerlo. Vabbè, no, ma comunque ormai è meraviglioso perché ormai siamo oltre. Abbiamo scavalcato, cioè le sta inanellando. Bridget Jones non può nulla. Esatto. Diamo i numeri di telefono per contattarci: 800 24 00 24. Questo è il telefono per intervenire in diretta. E poi. Ah, scusami, perdon. Il numero degli SMS e dei WhatsApp. Messaggi WhatsApp è 349-238-6666. Allora, oggi vogliamo partire a raccontarvi delle storie davvero di persone diverse che incrociano le loro vite in qualche modo, in maniera funambolica, dobbiamo dirlo, visto che noi siamo i funamboli. Il famoso fil rouge che mi è tanto caro. Sì, perché parliamo di carcere, parliamo di lavoro, di redenzione, recupero, parliamo anche di Cesare Battisti, parliamo di tematiche molto molto intrecciate. Lo facciamo attraverso le storie dei protagonisti di oggi. Allora, a Milano c'è il carcere più importante, che è il carcere di San Vittore. O meglio, tutti lo conoscono così, come San Vittore, ma da ieri il carcere di San Vittore ha cambiato nome. È intitolato, e bisognerà chiamarlo, il carcere Francesco di Cataldo. Francesco di Cataldo era il vicecomandante del carcere di San Vittore e il 20 aprile 78 fu ucciso dalle Brigate Rosse. Il figlio Alberto, che all'epoca aveva 19 anni, ieri ha scritto una lettera molto intensa sul Corriere della Sera. Il figlio è con noi, Alberto Di Cataldo, buongiorno, la ringraziamo di essere qui a Radio 24. Buongiorno, grazie. E lei cosa ricorda di quel giorno? Perché lo ha nitidamente impresso anche nelle righe lasciate al Corriere della Sera. Ricordo tutto, insomma, è stata un'esperienza, diciamo così, un po' forte. Ecco, quindi ricordo molto bene il trambusto in casa e mi sono affacciato al balcone e ho visto il papà disteso per terra. Perché è stato ucciso lì proprio sotto casa? Sì, alle 7:10 del mattino, sì, era molto presto e quindi sono sceso e ho visto appunto il papà per terra, poi hanno messo il tradizionale lenzuolo bianco e poi insomma è finita lì. Lei era molto giovane, Francesco, allora, vero? Sì, io ero appena maggiorenne, avevo appena compiuto, sono di marzo, quindi avevo appena compiuto 19 anni e stavo facendo la maturità. 19 anni. Senta, tra l'altro lei racconta in questa lettera al Corriere della Sera, suo padre sì. si era proprio speso, era un'icona e credeva tantissimo nel recupero, nella possibilità non solo del carcere come punizione, ma come recupero, attraverso soprattutto il lavoro. Sì, sì. Questa è stata un po' la cifra che ha caratterizzato la sua presenza per ben 28 anni, Milan. Lui è stato 28 anni nel carcere di San Vittore e ha percorso tutta la carriera di sottufficiale. Tenga conto che il corpo degli agenti di custodia era un corpo militare, mm-hmm. no? Non come adesso che c'è la polizia penitenziaria, che sono diventati, diciamo, un corpo civile dello Stato, ma i militari quando avanzano di grado cambiano sede, quindi venivano trasferiti da un sì. carcere all'altro. Lui rimase 28 anni ininterrotti, proprio perché era molto stimato e apprezzato. È una ricostruzione che poi io ho fatto successivamente, perché poi il papà era persona estremamente discreta, non raccontava molto. Ma oltretutto era pieno di qualifiche, vedo suo padre anche dirigeva il centro clinico del carcere, ma aveva preso un diploma da medico infermiere, un brevetto da tecnico sì. radiologo, cioè lui era anche sì. molto attento proprio alla condizione sanitaria dei detenuti, oltre alla sì. tematica del lavoro, vero? Sì, sì, sì, è proprio così. Diremmo oggi, con un linguaggio un po' più giovanile, che si sbatteva molto. E fu, sì. Paradossalmente fu per questo che fu considerato bersaglio e ucciso dalle brigate. Sicuramente, sicuramente. Io di questo ne ho radicatissima convinzione. È emerso anche molto bene nella giornata di ieri. Sono ancora molto emozionato perché c'è stata la cerimonia ufficiale al mattino, ma poi c'è stato un pomeriggio dentro il carcere di San Vittore. La direzione del carcere ha aperto San Vittore alla cittadinanza. C'è stato ci siamo ritrovati tutti nella grande sala polivalente del carcere, che tra l'altro era già stata intitolata al papà. C'erano studenti e poi un coro di detenuti, ed è emerso molto questa nei ricordi e nelle memorie anche di ex colleghi di sì. quanto lui fosse punto di riferimento per tutti e di come era la cerniera, il dialogo sì. perché Tra le istituzioni e i detenuti, tra le istituzioni sì, perché Milano sì. il carcere con la violenza e la contrapposizione diventa ingovernabile. Ma infatti, guardi, Alberto Di Cataldo, noi per l'importanza proprio che vuol dire che ha il lavoro, nel senso del recupero delle persone in carcere, abbiamo chiamato anche una persona che è anche diventato un volto noto, perché Salvatore sì. Striano, che è in prigione, è andato per reati anche gravi, associazione a delinquere, estorsione, spaccio di droga, ha trovato nel teatro, nel cinema, un percorso di redenzione a suo modo straordinario. Striano, un virtuosissimo buongiorno. Recupero. Buongiorno a tutti voi, ciao Veronica. Buongiorno, ciao Salvatore. Mi ascoltavo e mi immaginavo la foto di quest'uomo ucciso dalle BR in tutte le celle dei detenuti, perché credo che i detenuti dovrebbero conoscere che sono esistite persone così, così grandi, cioè nel senso che credono in un carcere possibile e soprattutto in un carcere dove si può lavorare e si può cercare una vera e sana revisione critica, ecco, attraverso il lavoro, attraverso la cultura in carcere questo può accadere. Ma se la tua esperienza, Salvatore, in carcere com'è stata? Cioè come è iniziato il tuo recupero? Come ti sei avvicinato al teatro? Guarda, a me è iniziato per caso, perché io stavo buttato 22 ore in una cella e per fortuna è venuto un detenuto ergastolano e mi ha invitato a partecipare a un laboratorio teatrale e da lì l'ho preso per gioco, per evadere dalla cella mm-hmm. e piano piano invece poi sono stato conquistato da questo testo teatrale e successivamente dalla biblioteca con tutti i suoi libri e poi piano piano è venuto tutto da sé. Tra l'altro, per chi non lo conoscesse, insomma, è apparso anche in Gomorra, in Cesare deve morire dei fratelli Taviani, insomma, è una un volto, memorabile interpretazione di Bruto nel film cercate, dei fratelli Taviani, Cesare cercate, deve morire. Sì, su Google è una... il volto lo riconoscerete sicuramente. È un bravissimo attore anche, posso dire. E quanto è importante per un carcerato, Striano, questo passaggio, cioè il oltre alla pena, ovviamente da scontare, l'idea di un recupero, di una nuova possibilità? Guarda, io credo che sia fondamentale, perché senza queste cose il detenuto viene abbandonato a se stesso e inevitabilmente si scambia il veleno, cioè i reati che io ho commesso li vado a raccontare a un altro detenuto che magari ne ha commessi altri e così facendo ci scambiamo il veleno e diventiamo, sì, soltanto dei diplomati in criminologia, perché se ci abbandoni a tutti i reati di quello mangiamo e di quello parliamo, invece quando c'è la scuola, quando c'è il lavoro, quando c'è il teatro, ma la musica, la pittura, qualsiasi forma d'arte che possa entrare all'interno di una cella, di un carcere, è un toccasano, perché piano piano ti mette in condizione di fare i conti con te stesso. E noi sappiamo, cioè noi detenuti che stavamo lì dentro, che poi prima o poi quei conti non li devi pagare solo a livello di anni di carcere, ma pure a livello di coscienza propria. E certo, l'arte, la cultura e il lavoro ti smuovono. Beh, e ti anche fanno... perché il lavoro ti riavvicina alla società esterna, che è un altro invece dei grossi scogli che c'è quando in carcere non si fa questo, cioè si resta in un microcosmo senza nessun contatto con la realtà. Esattamente, perché tu inizi a fare qualcosa di buono e poiché sei un poco di buono, perché stavi in galera, piano piano inizi pure a piacerti. È molto figo per chi non ha mai fatto niente iniziare a fare qualcosa di bello, e quando succede in carcere c'è un'atmosfera pazzesca, perché poi sono personaggi che sanno già di aver sbagliato e quindi non vogliono sbagliare due volte, sì, quindi se fanno il vino lo fanno buono, se fanno i biscotti li fanno buoni, se fanno il teatro li fanno buoni. Io ricordo sul set di Gomorra Garrone diceva vicino a me: ma perché non sbagli mai una battuta? Dicevo: ma te guarda che io quando sbagliavo andavo in galera e quindi non sono abituato a sbagliare tanto, abituato a tutti questo ridevano. Allora, oggi tra l'altro incredibilmente si intrecciano delle vicende, tra poco presentiamo anche il terzo ospite, e Veronica sulla prima pagina del Corriere, Massimo, sì, Gramellini giustamente si concentra su una vicenda di cui magari parleremo anche domani, forse, sì, la ricorderanno gli ascoltatori, quando un adolescente, un ragazzo 17 anni ancora minorenne di recente, esatto, ha spinto per gioco un vecchio su una scogliera uccidendolo di sotto, sì, fu una vicenda di cronaca incredibile. Allora la decisione del giudice in questo caso è di dargli la messa alla prova, questo strumento che per la giustizia minorile esiste, e lui, facendo 3 anni in un ospizio, avrà il reato estinto. Allora io dico, ma chiedo ad Alberto Di Cataldo e poi introduciamo un terzo ospite, voglio dire, la redenzione, il percorso di Salvatore Striano è un percorso straordinario, se si vuole, di redenzione, di recupero, però sì, c'è un tempo per il perdono, come scrive Gramellini, ma anche per la pena da espiare, da non so che messaggio diamo se a 17 anni sei quasi un uomo, uccidi una persona, fai 3 anni in un ospizio e il reato viene estinto. Di Cataldo. Sì, sì, indubbiamente, ci vuole molto, molto equilibrio. Io cosa posso dire? Cioè che vi do un dato estremamente pratico che è emerso anche nella bella giornata di ieri a San Vittore. Su 100 detenuti che sono in carcere, se questi 100 detenuti non fanno mai un lavoro, 70 su 100 ritornano in carcere. Sì. Se invece gli si dà qualche lavoro, anche non necessariamente durante la loro pena, ma parzialmente o con qualche permesso e tutto, la recidiva, come si chiama tecnicamente, sì, si abbassa al 19%. Nel carcere di Bollate di Milano, che è molto all'avanguardia, non solo nazionale ma europea, questa recidiva si abbassa al 12%. Credo che sia un interesse generale di tutti che chi delinque non ritorni in carcere. Sì, certo, per la società, oltretutto, per la società, anche da un punto di vista di costi, Alberto, certo, nel senso che anche per la spesa pubblica. Io nell'articolo di ieri ho scritto che i vantaggi sono 3: la spesa pubblica si riduce, c'è soprattutto più sicurezza in giro, perché se il delinquente si è redento, io posso passeggiare certo. tranquillamente per le strade, perché ha capito il male che ha fatto. Terzo, lo voglio dire a voi giornalisti, siamo dopo tutto nella città di Cesare Beccaria, un po' di coerenza con il nostro concittadino dobbiamo tenerla. Certo. Allora, ovviamente gli assassini di suo padre hanno scontato tutti, sono stati trovati di Cataldo? Sono stati... Dunque, ecco, questo per tornare a quello che diceva lei, Milan. Il processo d'appello si chiuse nel 1986, furono individuati 4 mandanti e 4 esecutori materiali. Era gli anni 80, il periodo della cosiddetta legislazione premiale. Sì, il terrorismo fu sconfitto, dobbiamo dirlo a gran voce, anche grazie a quelle leggi, e quelli che hanno ucciso mio padre probabilmente adesso sono tutti fuori. Come dire, va bene, d'accordo. Quello che è mancato e che manca tuttora è quello slancio morale da parte dei brigatisti di riconoscere apertamente, sinceramente, tuffandosi a corpo morto nel riconoscimento della miseria infinita che hanno commesso. Lei introduce, un tema che è un ospite che vogliamo introdurre, e ci ha ascoltato con pazienza, mai con noi. Maurizio Campagna, buongiorno. Maurizio buongiorno. Campagna è fratello di Andrea, ucciso nel 79, e per quel delitto Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo. Quanti ergastoli ha Cesare Battisti? Sappiamo tutti chi è in Brasile, 4 credo di ergastoli. Sì, ha 4 ergastoli. No, in realtà sono due. Sono due ergastoli, sì, sono due, uno per l'uccisione anche di un'altra guardia carceraria, Santoro a Udine, e uno per mio fratello, dove lui è stato proprio l'esecutore materiale. Quindi e infatti sono 4 omicidi, 2 omicidi commessi e 2 in concorso invece. In concorso, esatto, sì. Esatto. Ecco, sì. Diciamo subito che in effetti Battisti ultimamente ormai è noto a tutti quanti, sono note le sue dichiarazioni che sta facendo su tutti i giornali, su tutte le radio, quando dice che lui non ha ucciso Torreggiani, ha ragione, cioè nel senso lui non ha partecipato all'omicidio di Torreggiani, perché nello stesso momento si trovava a Santa Maria di Sala ad uccidere il papà di Sabadin. Lei Campagna ci consente di farle sentire la voce di Battisti, che alla RAI ha rilasciato una dichiarazione, ci consente di farla sentire, non le dà fastidio? Sì. L'ho già sentita, anzi poi ribatterò, certo, dirò certo. Anche sentiamo, qualcosa Cesare, su Cesare Battisti. Come si può essere soddisfatti o fieri di tanta violenza, tanti omicidi, tanto sangue, da una parte come dall'altra? Come che io non ho compassione per le vittime? Claro che c'è compassione per le vittime. Io ho 62 anni, ho figli, ho nipoti, già sono nonno. Lei lo sa che io avevo una relazione con Alberto Torreggiani, ci siamo scritti durante anni, l'ho aiutato a scrivere un libro. Io ho lettere di Alberto Torreggiani dove lui dice testualmente che non ha nessun dubbio sul fatto che io non ho nulla a che vedere con la morte del padre. Addirittura nulla a che vedere, è un po' diversa la versione Campagna. Sì, no, allora, ovviamente, io l'ho sempre detto, Cesare Battisti è furbo, è una persona molto furba e quindi gira le parole a suo piacimento. Allora, lui, e lo confermo e lo può confermare anche Alberto, lui non ha partecipato e non ha avuto nulla a che fare materialmente per l'omicidio di Torreggiani, perché non era lì sul posto. Questo qua risulta dagli atti, non era lì sul posto perché era a Santa Maria di Sala a fare il palo per uccidere il papà di Adriano Sabadin. Quindi ha ragione su questo. Il fatto però che abbiano organizzato, progettato e poi realizzato i 4 omicidi, questo tacito, sì. Gli atti parlano chiari. Oltretutto vogliamo dire anche che suo fratello era considerato anche lui, no, un torturatore di detenuti, quando in realtà era un autista della Digos, quindi pure lì ci fu un... Sì, esatto, allora, lì praticamente cosa è successo? Mistificazione totale. sì, assolutamente. Allora, qui bisogna entrare anche nel ragionamento di questi... killer seriali, perché oltre ad essere terroristi questi erano dei killer seriali. Allora il problema è leggono una notizia sui giornali, ok, non approfondiscono la cosa come invece fa la nostra giustizia, che quindi va a cercare se il fatto è successo veramente, va a cercare testimoni eccetera eccetera. Quindi risulta che le persone che sono state arrestate da Digos, dove mio fratello è stato inquadrato per 5 secondi mentre trasportava una di queste persone sul cellulare della polizia, dicono che sono stati torturati in questura. Ovviamente poi dagli atti tutto questo non risulta, però vabbè, okay. Però quei 5 secondi di foto, quei 5 secondi di immagine l'hanno condannato. Sono stati sufficienti per decretare che fosse un torturatore. Lei che ne pensa? Cioè, tornerà Cesare Battisti secondo lei? Verrà estradato dal Brasile? Sa che c'è tutta questa vicenda che ormai dura da non so quanto. Ha fiducia in questo? Ma io me lo auguro, io ripeto, cioè stiamo parlando di un terrorista, cioè guardiamo l'America cosa sta facendo contro il terrorismo a livello mondiale, guardiamo anche tutti gli altri stati che stanno combattendo il terrorismo, io non riesco a capire come fa un paese come il Brasile invece a innamorarsi di questo delinquente. C'è da dire che in termini di capacità difensive Battisti è stato veramente un equilibrista, cioè è riuscito ad inventare degli escamotage di ogni genere passando da un paese all'altro, addirittura adesso per esempio che la vicenda sta per tornare alla Corte Suprema, pare che alla Corte Suprema sia stata recapitata una lettera dalla sua ex compagna che sostiene che non riuscirà più a mantenere il loro figlio di 4 anni se Battisti venisse rispedito in Italia. Diciamo che di aiuti ne ha, di aiuti anche a posto ulteriori elementi, no, che servono sempre a rimanere in equilibrio. Ma infatti era quello che dicevo prima, è una persona molto furba, cioè nel senso che riesce a far credere, soprattutto non agli italiani, perché ormai gli italiani hanno capito sì, che è Battisti, ma a persone straniere a dire che lui è un perseguitato. Però lei, Maurizio Campagna, che effetto le fa sentire la storia di Alberto Di Cataldo, anche il suo percorso molto equilibrato, anche la storia di Salvatore Striano dal carcere diventato, come dire, anche un attore famoso? Voi, dico lei e gli altri parenti delle vittime dei reati di Cesare Battisti, questo percorso forse non siete mai riusciti a chiudere perché manca una fase importante, quella di vedere la persona in carcere? Beh, diciamo che tutta la combriccola dei PAC, bene o male, la maggior parte hanno pagato il loro debito con la giustizia. Poi si può discutere se in effetti, come dicevamo prima, se in effetti gli anni che sono stati attribuiti a queste persone sono in effetti sufficienti o meno. Esatto, sufficienti, certo, o meno. A me, soprattutto a me e anche agli altri quattro amici con cui condividiamo questa triste vicenda, ci rode il fatto che questa persona, cioè Cesare Battisti, e soprattutto la mia famiglia, perché è stato l'esecutore materiale proprio dell'uccisione di mio fratello, non abbia scontato neanche un giorno di pena per quello che ha commesso. È stato in galera, è vero, ma è stato in galera per altri reati, perché ripeto, Battisti nasce delinquente e si converte al terrorismo in carcere a Udine, dove c'era appunto Santoro e dove c'era il suo mentore che era Cavallina. Anche lì Battisti si arrampica sugli specchi dicendo che lui da prima invece era un militante di lotta continua e che quindi in realtà la sua passione, figlio di due membri del PC, quindi cioè iscritti al PC, quindi lui in realtà poi inventa, però la storia è questa. Sì. Guardi, io faccio parte anche dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e faccio parte del direttivo. Allora, noi sul nostro sito, che quindi gli ascoltatori possono andare a vedere, sul www.vittimeterrorismo.it ci sono gli atti processuali dei PAC, ci sono tutte le tre sentenze. Ci sono tutte e tre le sentenze. Chi vuole divertirsi a vedere che cos'era Cesare Battisti, soprattutto a leggere, sono 1600 pagine, 800, eccetera, quindi sono tantissime pagine, però se qualche radioascoltatore volesse divertirsi a leggere quello che erano i pacchi, soprattutto quello che era Cesare Battisti, ecco lì proprio riuscirà a capire con chi stiamo parlando. Dobbiamo dare un attimo a sentire la pubblicità, se avete pazienza, ci sono anche gli ascoltatori all'800 24 00 24, riprendiamo tra un attimo. I funamboli. Allora, c'è Stefano che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Che ci vuole dire? È un piacere parlare con voi. Volevo dirvi, io faccio parte di un'associazione teatrale che è una onlus che si fa dei bambini, e lavoravamo in un teatro che è il Teatro La Scala della Vita, che adesso purtroppo ci hanno chiuso per questioni di concessioni e agibilità eccetera, Lavoriamo all'interno, tra le altre cose, dell'ICAM, che è l'istituto carcerario a detenzione attenuata per le mamme che non possono avere gli arresti domiciliari, che quindi sono lì in carcere con i bambini da 0 a 6 anni. E abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale, stiamo continuando un laboratorio e devo dire che è molto bello vedere come questa piccola cosa, che a noi sembra piccola perché è semplicemente andare lì, fare un po' del nostro mestiere di teatranti. No, musica per le orecchie di Striano, musica per le orecchie di Striano, immagino. Guarda, io quando sento poi queste cose mi riempio di gioia, perché so quanto funziona e loro lo possono testimoniare, perché io sono parte in causa, essendo stato un detenuto salvato sì con il teatro e con i libri, non posso dire diversamente, però le testimonianze invece di altri, perché poi io sembro una mosca bianca, perché sono stato tra virgolette fortunato ad aver incontrato Garrone, Italiani. Certo. A prescindere se uno è bravo o meno, dobbiamo essere bravi poi ogni volta che ci chiamano, quindi sei bravo una volta finisce, devi essere subito bravo di nuovo, ma è proprio a prescindere dall'attore il praticare il teatro all'interno del carcere, ma io glielo auguro anche alle persone di fuori, ti permette di veramente di avere una presa di coscienza, di diventare anche perché più uomo. Salvatore, il teatro è anche una forma di terapia per alcuni versi, per cui è anche, guarda, un lavoro di introspezione. I primi 3 anni di galera, quando lo porteranno in Italia, mi auguro che lo porteranno, perché merita di entrare in carcere, perché poi chi toglie la vita a una persona lì dentro ci deve entrare un attimino, no? Perché sennò veramente dove stiamo andando? Questa, stiamo questo, Salvatore, la ricerca di uccidere a una persona che poi si fa delle ragioni che non esiste ragione. Cioè, Salvatore, la vicenda di cronaca di questo 17enne a me ha colpito, cioè che ha fatto, tra l'altro per scherzo, ha spinto sulla scogliera, ha ucciso questo anziano, ha 17 anni, ma per carità, non vogliamo, siamo il paese di Beccaria, cioè non vogliamo distruggere le leggi italiane, ma questo non farà un giorno di carcere. Poi dobbiamo vedere invece un altro ragazzo di 17 anni che l'anno scorso per qualche dosa di marijuana si è dovuto lanciare dal balcone, perché si è saputo intervenire, sì, è vero, quella storia. In una maniera diversa, vedi, un assassino va messo in prova e un ragazzo per procurarsi una che gara c'aveva, in un paese dove c'è ancora questa roba che i ragazzi, sì, c'era l'onta sociale, sì, per procurarsi una dose di marijuana si devono lanciare dai balconi di casa propria, e il problema è che noi abbiamo delle leggi interpretative, e quindi ogni magistrato la mattina si sveglia e fa un po' come gli pare, e questo non va bene, perché così ci allontana dal rispetto delle regole. Per fortuna, una volta che entri in carcere, lì dentro ci sono delle regole da rispettare, e quando inizi un percorso invece che è fatto di lavoro e di cultura, quella cosa la puoi espletare nel tempo, e il tempo ti permette di avere questa revisione critica. Ecco, per esempio, i brigatisti hanno avuto un favore, ci fu la legge della dissociazione, disse dissociatevi, vi facciamo uscire tutti dalle galere, ma non è che qui i detenuti erano pentiti o ravveduti. No, è quello il discorso, perché poi nessuno di noi sta dicendo che la punizione non ci debba essere. Un conto è dire che la punizione non deve essere passiva, quindi che il percorso che si fa in carcere non debba essere completamente passivo, senza stimoli e senza nessun tentativo di reintegrare. Però da questo a dire che le punizioni non ci debbano essere e che si possa evitare la tappa del carcere, insomma, c'è molto in mezzo. Andrea da Treviso, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno, mi pare di sentire il mondo delle favole. Perché? Perché noi che stiamo per essere torturati da 10-13 anni contro la giustizia italiana per avere risparmi truffati dalla Parmalat, questi qua vanno in carcere, ne combinano tutti i colori e poi vengono premiati. Noi siamo torturati nelle fabbriche a lavorare sulle catene di montaggio e come schiavi, e questi qua si fanno anche il teatro. Quando dice questi qua, scusi Andrea, quindi secondo lei che cosa dovrebbero fare in carcere? Dovrebbero stare lì fermi? Qua dovrebbero essere portati a lavorare nelle fabbriche, il posto vengono gli africani apposta qua, questi devono essere portati nelle fabbriche a produrre, a rendersi utili, no? Ma moltissimi fanno anche lavori manuali, cioè c'è chi fa il panettiere, chi fa il meccanico, il muratore, il falegname. Ma non teatro, questo è un premio, premiare uno che ha fatto la bella vita per tutta la vita. Vabbè, insomma, Andrea, vediamo Guardi, molti subito il voto anche a Stefano molti vota Stefano Torre, per gli ascoltatori quello non capiscono. Ieri deve essere Stefano stato Torre per il matrimonio a tempo determinato, Andrea, è stato però quello. Gli ascoltatori non capiscono se lei fa un riferimento alle 10:40 della puntata di ieri mattina, è un'altra dopo vicenda. Lo spiegheremo, Andrea, le risponde, guardi, Alberto Di Cataldo, che ha un padre che è stato ucciso dalle Brigate Rosse perché credeva tantissimo nel reinserimento con il lavoro dei carcerati. Che risponde ad Andrea da Treviso, che dice: lavorino ma al teatro no, come se fosse un'altra cosa. Allora, il lavoro deve servire per far capire a ciascuno il male che hanno fatto e non farglielo commettere più. È un problema, io lo vedo, almeno il papà lo vedeva molto pragmaticamente. Le carceri devono cercare di ridurre la criminalità o devono diventare delle scuole di formazione della criminalità? Questo è il punto e interessa a tutti questo. Vogliono fare il teatro abbassa la recidiva? Vada bene il teatro. Certo. I dati concreti confermano. Le cifre che vi ho dato prima sono dati del Ministero della Giustizia. Sono straordinarie, cioè ricordiamole, su 100 che lavorano in carcere, solo 16, giusto? Diciamo che siamo intorno al 73-74% sì, in assenza di lavoro e come media scende sotto il 20%, sotto il 20%. Intorno al 19%. Ad alcuni picchi fino al 12% addirittura. Se si lavora. Nel carcere di no, Bollate. Ma questo per capire che è una risposta all'ascoltatore, cioè se non commettono una recidiva vuol dire che quando escono non delinquono più e quindi nuovamente non sono perché sono per riusciti a fare un percorso. Oltretutto non vorrei spezzare una lancia, ma il mestiere dell'attore di teatro è un mestiere, ora non vorrei essere chiamata in causa. No, purtroppo è un mestiere retribuito, talvolta anche male, questo a prescindere dalla situazione detenuti, ma perché sennò c'è sempre questo. Come ci ha detto Striano, la frase più bella di Striano, e concludiamo con quella, è quando Garrone diceva: perché non sbagli? Perché io quando sbagliavo andavo in carcere. È straordinaria, cioè questa lezione capita nella vita e applicata anche sul set cinematografico. Noi vi dobbiamo ringraziare tutti, davvero, sì, Salvatore Striano e Maurizio Campagna, ricordiamo, fratello di Andrea, ucciso nel 79 da Cesare Battisti, che è ancora là in Brasile a parlare claro, ma parla italiano almeno, non fare finta di fare il brasiliano che sono io quando vado qui al bar del Sole 24 Ore, c'è Virginia brasiliana, dico un cafesigno, tu parla italiano, che li hai uccisi in Italia le persone, in Italia. Va bene, ringraziamo anche Alberto Di Cataldo, scusate lo sfogo. L'hai presa di la pasticca stamattina? No, ma l'ho presa, ma io guarda, c'è una persona che quando sento mi fa pulsare la vena, e Cesare Battisti. Lo so, ma non ci avevi anche fatto la promessa che se tornava in Italia tu saresti sceso per strada nudo? Io ti ho detto che vedi che non sta tornando. Sta tornando, io te l'avevo detto che non finiva così. Ricordo bene, dai. Alle 9:46 minuti è il momento del traffico. I funamboli. Ciao Milan, ci sarebbe un altro autore da leggere, Skriniar si chiama come te Milan e come la tua squadra, solo che è costato un quinto di quello che avete comprato voi dei Gobbi. Milan, hai visto senza Bonucci avete vinto? Lui sposta gli equilibri, Milan! Oh, ma la fase è finita con queste sceneggiate e così, queste cosette che fate con il calcio, Kalinic, Poeta, ma che è? Sì, una volta può succedere, ma non siete tanto simpatici, continuate, siete pesanti. Lo so, Veronica è un po' pesante. Che dobbiamo fare? Cioè, siamo pesanti, ci portiamo dietro la pesantezza. Meno male che c'è Leonardo Manera. Ma io vorrei anche dire all'ascoltatore che la pesantezza è la cifra di questo programma. Cerchiamo di essere il più pesanti possibile. Ogni giorno in riunione diciamo come possiamo essere pesanti. Noi cerchiamo di mettervi del piombo addosso. Sì. Allora, hai visto Leonardo che prima mi sembrava fosse intervenuto Battista da Cavaglione. Da Cavaglione Veronese, perché Agano, mettiamone fabbriche al posto dei negri africani, eh? No, poi si capisce che questo, insomma, tanti degli umori veri del paese sono questi. Però è anche vero, io l'ho già detto un'altra volta, che le persone che lavorano in carcere, ed è stato confermato anche oggi, poi quando escono, insomma, hanno meno probabilità di delinquere e, come si è detto, di essere meno dannosi per la società. È difficile da accettare, magari, per chi ha subito un torto, ma è così, insomma, quindi è così, è così. Sì. E allora, però, insomma, in questi giorni abbiamo parlato molto di famiglia, anche sì, oggi in qualche modo, no? E ne parleremo anche più avanti, parleremo poi di dare o no la sculacciata ai bambini. E allora io vorrei parlare di famiglie dicendo che in questo periodo si raccolgono le olive. In certi posti si raccolgono ancora a mano, si appoggia lo scalino sulla pianta, si sale e ramo per ramo si prendono le olive e si fanno cadere nella rete. Poi si tolgono le foglie, si mettono tutte insieme e si portano al frantoio. E dopo un po' hai il tuo olio. Da ragazzo qualche volta lo facevo con mio padre. Era una delle cose che facevo con mio padre, una di quelle che mi sono rimaste più impresse. Questi giorni abbiamo parlato molto di problemi familiari, di padri e madri lontani dai figli. Fare il padre è difficile perché devi imparare a fare una serie di cose che prima non sapevi fare. Devi imparare a raccontare le favole, ma nel modo più monotono e monocorde possibile, perché se interpreti i personaggi il bambino si eccita e non si addormenta. Allora devi essere completamente monotono. Io avevo inventato per far dormire mio figlio una favola dove c'erano un padre e una madre che avevano 100 figli e tutti si chiamavano Carlo. Una sera la madre decise di chiamarli tutti Carlo, Carlo, Carlo, Carlo. Al 12° Carlo mio figlio si addormentava. Poi tu da padre devi insegnare tuo figlio a fare tutto. Prima pensavi che alcune cose facessero parte del codice genetico umano, come vestirsi da soli, mettersi le calze col tallone sotto, soffiarsi il naso, tenerle posate nel modo giusto. Invece no. Devi insegnargli tutto, a volte ci vogliono anni. Arrivi a invidiare i caprioli, che al quarto mese di vita sono già autosufficienti. Vorresti essere il padre di un capriolo. Soprattutto tu da genitore devi partecipare alla recita di Natale, al presepe vivente. Il genitore più sfortunato è quello che deve recitare la parte del fabbro, con l'incudine addosso, picchiare col martello, e poi passa tutto il giorno di Natale con la lombosciatalgia da incudine. Oltre a tutte le altre cose che già sapete, che tutti i genitori hanno fatto e che creano nel bambino l'idea di avere una famiglia quando c'è. Poi il figlio diventa adolescente, coi primi turbamenti sessuali, e ha ancora bisogno dei genitori per avere un parere, un consiglio, un conforto. Un giorno, tanti anni fa, ho chiesto a mia madre: «Mamma, troverò mai la ragazza giusta?» E lei mi ha detto: «Leonardo, troverai la ragazza giusta al momento giusto». «Mamma, qual è il momento giusto?» E lei mi ha detto: «È quello che magari ti sembra sbagliato». Grazie, mamma, per avermi chiarito le idee. E poi, poco alla volta, il figlio trova la sua strada nella vita, in mezzo anche a litigi, discussioni, incomprensioni. Poi il bambino, diventato ragazzo, che sta per diventare uomo, trova la prima fidanzata e fa l'amore con lei, pieno di ansia da prestazione. Mentre i genitori ormai, quando fanno l'amore, non hanno più ansia da prestazione, al massimo hanno lo stupore per la prestazione. E alla fine il figlio è diventato uomo e forse non ha più bisogno di cose materiali se trova un lavoro, ma ha bisogno di ricordi, di cose fatte coi genitori se vogliamo che la famiglia abbia radice e anche forza nella società. Uno dei miei ricordi sono quelle olive che toglievo dal ramo insieme a mio padre e poi le bottiglie piene del nostro olio, fresche di frantoio ma in qualche modo piene di vita. Secondo me tu hai fatto il fabbro in qualche presepe vivente. Allora, a scuola, eh? Il primo presepe dove ha partecipato mio figlio Beniamino, hanno fatto fare mio figlio Beniamino la parte di San Giuseppe. Appena entrato io ho detto: poverino, così piccolo e già cornuto. Dai, dai. Scherzo, scherzo, no, cari cattolici, no, amici, scherzo, che dopo adesso parte il linciaggio, pronto? Scherzavo, era una battuta. Dillo, ripetilo fino a stasera, dai, scherzavo, perché sennò alla fine. Mea culpa, che ho peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. La quantità di omissioni. Mamma mia, va bene. Da domani su Radio Maria potrete ascoltare Leonardo Manera, non credo verrà scritturato. Lo mandiamo in carcere direttamente? Esatto, c'è Davide da Lodi. Buongiorno Davide, cosa vuole dirci? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, io sono a favore dell'abolizione del sistema carcerario italiano. Ma lei è Stefano Torre, candidato alla presidenza del Consiglio che ieri? No, non so. Stefano Torre è qui vicino, abita vicino a me. Comunque ecco. Lo voterai sicuramente. Sì. È questo candidato pazzo che vuole candidarsi. Ma non si chiama pazzo. Ma dai, su, dai. È il candidato numero uno. È un futurista. Uno, candidato futurista. L'Italia. Ma perché lei, Davide, vuole dico questo? Dico di più. Temo che l'estradizione di Cesare Battisti potrebbe comportare una sua ulteriore vacanza dorata nel nostro paese. Questo qui è il mio timore. Forse in Brasile fa un carcere più duro. Guardi, io Davide non lo so. Però non lo fa al momento il carcere. Io in carcere in Italia non la preferirei andare, che ne so, alle Mauritius piuttosto che in carcere. Cioè quella la vedrei una vacanza dorata. Grazie per questa considerazione. No, perché Davide ci dice sempre perché una vacanza dorata il carcere italiano. Davide abolirebbe il carcere e che farebbe in alternativa con i detenuti? Questo ce lo lasciamo come sospensione. La decapitazione oppure mandarli a spasso? Non ho capito. Non lo so. La lasciamo sospesa per il giornale radio, la approfondiamo nella seconda ora dei Funamboli. Sei un dermatologo in cerca di nuovi clienti? Allora acquista e regala ad amici e conoscenti la lozione dopo barba Lambro, la lozione che produce ogni giorno eccitanti novità sulla tua pelle, risolvibili solo con l'aiuto di un bravo dermatologo. Dopo barba Lambro, il dopo barba per l'uomo che non teme il pericolo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Scusa Milan, ma è sempre stata garantita la libertà dalla Francia a Cesare Battisti. Mi spieghi da chi? Se ne parla sempre, ma chi sono questi personaggi che hanno garantito la libertà e i soldi al signor Battisti? Ragazzi, io mi auguro vivamente che Cesare Battisti rimanga là in Brasile tranquillo e beato dov'è, veramente. Perché se tornasse in Italia diventerebbe sicuramente una star mediatica. Entrerebbe sicuramente nella casa del Grande Fratello e ospite di Maurizio Costanzo. Questo non sappiamo. Vabbè, ma cara ascoltatrice, sai che su questa seconda teoria io potrei anche concordare, no? No, però per rispondere al primo ascoltatore ci fu la famosa dottrina Mitterrand, cioè è il presidente francese che stabilì che la Francia avrebbe valutato i casi di estradizione soprattutto per dare per il diritto d'asilo qualora ci fossero stati dei perseguitati. Sì, soprattutto per le loro idee. Per quei paesi, dicevo, che non rispecchiano secondo la Francia i valori della detenzione, e questa era la famosa dottrina Mitterrand. Poi fu da lì, dalla Francia, andò in Brasile. Anche Tony Negri rimase per anni in Francia. Anche Pietro Stefani, ricordiamolo, Giorgio Pietro Stefani, omicidio calabresi, si trova in Francia, libero e bello, a Parigi, tra l'altro tutti sanno dov'è. A me no, mi risulta che ci siano persone che sanno benissimo dove si trovi, eppure è lì. Tra l'altro voglio rispondere all'ascoltatore che ci ha detto: cara Veronica, ti ho girato WhatsApp, ha detto bravi, avete trasformato il carcere come se fosse l'IKEA, non capisco perché l'IKEA, con delle persone, delle persone così, dei santerelli dentro. Magari, no, ma è bellissima la chiosa fa. Pensate che magari vi ascolta una persona che ha un parente ucciso. Allora, caro ascoltatore, c'erano due dei tre ospiti che avevano due parenti, hanno due parenti infatti, uccisi. Sorge il dubbio se la trasmissione sia stata ascoltata o meno. Lo so, infatti dalla... il problema ogni tanto è proprio banalmente al mattino col cotton fioc sturarsi le orecchie. Il paradosso è che colui che incentiva il recupero in carcere di quelli che appunto hanno rubato la matita all'IKEA, secondo lui è il figlio di una delle vittime di questi delitti. Ma e no, incentiva dopodiché, proprio quel tipo di non recupero. È detto che il pensiero di Alberto Di Cataldo sia la Bibbia, non è nessuno se dice che è la Bibbia o il pensiero di Maurizio Campagna, ma è il loro pensiero. Noi ospitiamo il pensiero anche di chi la pensa diversamente, No, ma poi secondo me il misunderstanding nasce sul fatto che sembra che uno dica non va fatto il carcere, o il carcere è una cosa inutile perché devono stare liberi e gioiosi a correre su un prato. No, si sta parlando di scontare una pena, ma nel frattempo fare qualcosa di socialmente utile che serva a evitare che quando si esce si ricominci da capo. Anzi, io lo ribadisco, sono abbastanza schifato di una legge che permette, e l'abbiamo detto, io l'ho detto al 17enne che ha ucciso un vecchio, di fare 3 anni di messa alla prova e per questo vedere estinto il reato. È uno schifo, dice, è una legge dello Stato, è una legge che mi fa schifo. Ma lo dico così. Comunque a Bollate, per esempio, ci sono detenuti che fanno lavori di qualsiasi tipo. Insomma, c'è la lavanderia dentro Bollate, se non sbaglio, c'è la falegnameria. Non quindi... sì. Sai che a Bollate le donne cuciono le toghe dei magistrati. Questa cosa la diceva ieri nella lettera, è bellissima. Sì. Oltretutto, Milano per i carceri è molto virtuosa. Anche il carcere di Opera, leggevo, segue un po' lo stesso modello di San Vittore. E sono il recupero dei detenuti mediante il lavoro. E molto spesso il lavoro manuale, anche, dicevamo prima. Ma poi bisognerebbe capire che il recupero dei detenuti non serve solo ai detenuti, ma come dicevamo serve alla società, serve a noi, alla sicurezza e a ridurre la spesa pubblica, che poi stiamo sempre qui a parlare di questa spesa pubblica famosa, come il discorso della prevenzione rispetto alla cura delle malattie, serve anche a risparmiare denaro. Alle 10:13 minuti, siamo in ritardissimo, ma come sempre, d'altronde, come maniera che si affanna sulle squadre, sulle scale mobili e corri, mettiti a correre, fai spostare ormai manera. Mi sono normalizzato, mi metto anch'io in fila a destra, è il momento della oggi non hai preso un calcio sugli stinchi, no? Buongiorno. Nome: Benedetta. Cognome: Coccia. Età: 24 anni. Un anno dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia, ha lanciato la sua azienda, Oro di Norcia. Oro di Norcia, ma perché con l'H? Questo non l'ho capito. Benedetta Coccia, buongiorno. Buongiorno. Oro di Norcia, ma con l'H davanti alla oro di, alla o di arriverà oro. Dal latino, horus. Oro, esatto. Chissà perché. Devo dirtele io queste cose, vedi, Milan. Ragazzi, quell'intellettuale di Manera, come ti deve spiegare tutto. Crassa. Benedetta Coccia, buongiorno. Buongiorno. È una delle persone che voleva lasciare la sua terra per il terremoto, e invece... Esatto, io dopo il sisma del 30 ottobre sono stata circa un mese a San Benedetto, dove ho una sorella che vive, e sono stata veramente tanto combattuta se tornare oppure andarmene, e alla fine la strada è stata quella di tornare, perché amo il mio luogo, i miei territori, amo la mia terra e a mio parere ne raccogliamo dei frutti meravigliosi. Quando stavo a San Benedetto del Tronto, allora sentivo molta nostalgia, ma soprattutto vivevo quasi un senso di colpa, perché avevo i miei genitori che erano a Norcia, tutti i miei amici che erano rimasti qua, e mi sentivo un po' quasi in colpa ad aver abbandonato tutto, e soprattutto non riuscivo a rendermi utile in quel momento in cui veramente era successo di tutto. E invece poi com'è nata la rinascita? Allora, la rinascita è nata dopo, diciamo, un mio percorso interiore, perché come ho detto ero molto combattuta se restare oppure andarmene. Beh, anche perché essendo così giovane era facile dire vabbè, prendo tutto, faccio la borsa e vado a fare qualsiasi cosa da un'altra parte. Esatto, un po' diciamo quello che fanno tutti i ragazzi, è una cosa all'ordine del giorno. E invece il richiamo appunto al mio territorio è stato più forte. E che ha fatto? Cosa ha messo in piedi? E allora mi sono detta, devo ripartire, ma lo devo fare meglio di prima. Il mio papà coltiva le lenticchie di Castelluccio, e a Norcia coltiviamo anche altri legumi e cereali. E in sostanza io ho rilanciato un po' l'economia locale, trasformando le nostre materie prime in prodotti gourmet, dalla pasta biologica, delle mousse di legumi, biscotti, una linea di fine food. Bello. A marchio appunto Oro, il ricordo del terremoto, tanto che ho voluto riportare nel marchio la data 30/10/16, che è stata la data del terremoto, ma è stata anche la data del mio compleanno. Ovviamente quasi subito scrivono i nostri linguisti: beh, senza H oro senza H, perché c'è l'H di oro? Io non l'ho ancora capito, cosa, dal latino, ma che parola di latino? Allora, diciamo che è stata fatta un po' una ricerca di anteriorità e quindi abbiamo visto cosa era già esistente e cosa no. E oro di Norcia, perché appunto è una linea di fine food, e quale parola se non l'oro valorizza al meglio i prodotti. Ma c'ha l'H però. E c'ha l'H, sì. Come si è incaponito sull'H qui, Alessandro, veramente. Mi incuriosisce. Questa renderà impossibile l'andata avanti del racconto. Ma tra l'altro, perché se no non la trovate su queste googlate, oro di Norcia, non la trovate. Tu hai paura di sbagliarlo e che poi ti dicano che è verbo avere, che l'hai scritto con l'H, è questo il problema. Perché mi interessa, Benedetta, perché? Però il lato positivo, insomma, è che almeno tutti ricorderanno oro con l'H, esatto, perché è una cosa insolita. Direi che sicuramente ci sarà un incremento delle vendite dopo questo oro con l'H, Benedetta. Puoi stare tranquilla. Ma da dove nasce? Da dove nasce? Che cosa, che creatività c'è dietro quest'H? Mi interessa. Allora, tantissimo. Come ho detto, è stata fatta una ricerca di anteriorità, quindi abbiamo visto che già oro di Norcia era presente. Allora abbiamo detto facciamolo, ma in maniera differente. Abbiamo utilizzato quest'H. Oh. Ma quando uno ha il dominio già occupato e mette un H, una lettera prima per poterlo fare, diciamo, in questo modo. Senti, ma il contributo oro con l'H rimane più impresso, no? Ma è una divinità egizia. Peraltro oro con l'H, quindi... sta googolando tutto adesso, poi tra un po' gli manderanno da Norcia sicuramente una mail dicendogli di smentire qualcosa. Beh, è chiaro che andrà così. Comunque, Benedetta, volevo sapere, ma invece tutta questa, tu hai dato un apporto in più a quello che già faceva tuo papà, cioè avete integrato le varie competenze, i vari know-how familiari e avete costruito, è anche un po' quasi slow food, come dire, un po'. Esatto, sì, esattamente. In sostanza io ho voluto valorizzare quello che coltiviamo. Noi coltiviamo le lenticchie di Castelluccio, ma non solo, abbiamo cicerchie, roveia, che sono dei prodotti conosciuti soprattutto nella zona del centro Italia, ma ad esempio già se ci spostiamo al nord sono meno conosciuti. E quindi mi piaceva proprio far conoscere i nostri prodotti oltre alle lenticchie. Allora, ma li possiamo ordinare online? Esatto. Domanda fondamentale, è fondamentale questa. No, anche allora, perché se andate sul sito internet oro con Construction. Quindi proprio in questo periodo stiamo cercando di ultimare il tutto. No, ma non è molto fantastico, è molto io importante. Faccio ordine, ve lo dico. È molto importante. Grazie. Questa cosa, Benedetta Coccia, solo perché... una domanda dopo. Sì. No, non è che essendo adesso diventati prodotti gourmet, questi prodotti appunto costano oro e si chiama così per quello, perché tutti i prodotti che diventano gourmet immediatamente assumono un prezzo diverso, sbaglio? Allora, sicuramente non è un prezzo magari da grande distribuzione o discount, perché sono dei prodotti di nicchia. E quindi costa, ha sicuramente più, un prezzo di differente più. Ma la qualità del prodotto giustifica. È fondamentale tutto. Dirlo, cara Benedetta, perché ieri anche un altro ex ospite che abbiamo invitato ci ha mandato i suoi prodotti. È Giuseppe Bozzaotra, che salutiamo con grande amore. Solo che lui produce insetti commestibili, per cui sono arrivati dei grilli, sono arrivate delle larve, degli scorpioni. E ecco, c'è da dire che ieri sera magari quei delinquenti della redazione lì stavano banchettando all'ora dell'aperitivo. Elisa Bancaldi in particolare, che è la più coraggiosa. Andate anche a Cruciani, che in onda mangiava le nostre larve. Mi hanno mandato una foto di Cruciani che stava ingurgitando insetti. Larve, questo larve, sempre larve, per alimentare la sua polemica, no, con tutti gli animalisti. E tutti gli insetti che noi non abbiamo cuore poi in realtà di mangiare, lui li stava allegramente divorando. Io vorrei due lenticchie, non per abbinarle alle larve, ma insomma andiamo al traffico. Funamboli. Allora, sono le 10:21 minuti e siamo in diretta con i Funamboli per un nuovo tema che secondo me vede Leonardo Manera ora protagonista. Stavo pensando che tutti i prodotti naturali diventano gourmet poi. E costano tanto. Sei uscito da questa ossessione. No, uno si coltiva le banane, vabbè, le banane non può, il pomodoro a casa sua e diventa subito pomodoro gourmet. Gourmet. Ma perché dopo che tutte le cose, no, sono diventate OGM, pesticidi, sì, tutte fatte, appena c'è un recupero di tutto quello che è bio a chilometro zero, i prezzi levitano esponenzialmente. Me lo vedo molto il pomodoro gourmet della periferia di Milano dove abita Leonardo Manera, proprio gourmet con lo esempio, smog di potreste mettere su un orto voi due, no? E vi mettete lì e poi lo vendete e fate prodotti gourmet. Io faccio i datterini di Viale Padova. Certo, come no, gourmet. Va bene, allora alle 10:22 minuti dobbiamo parlare di questo tema. E che è un argomento che mi preoccupa molto, perché temo che possa poi impedirmi di prendervi a sberle. No, ecco, lo so. No, in realtà il tema è molto, come dire, direbbe mia mamma, è vecchio come il cucco. Si dice così qui al nord, cioè è l'idea della sculacciata educativa, già il termine forse secondo me stride, perché una sculacciata non è mai educativa, per alcuni invece sì. Per anni è stato così, insomma, per educativa. Tutte le generazioni precedenti era così. Per i bambini. Bello scappellotto. Io devo confessare, non siamo nel defurbizziamoci, ma insomma qualche volta una sculacciata quanto succedere. Dici la verità, quelle povere creature cosa subiscono? No, ormai no, hanno un'età, 11 anni, 9 anni, in cui si cerca in maniera ignominiosa un dialogo. Ma tu, Leonardo, nel senso che hai paura che poi te le ridiano le sberle? Io con mio figlio no, perché ho notato che basta cambiare il tono di voce e immediatamente il bambino si blocca, perché sentendo comunque sempre un tono amichevole, se tu cambi modo di parlare, almeno con mio figlio succede così. Però mia madre mi diceva di tutto, mi inseguiva con la scuola, con gli zoccoli, mi diceva ti ammazzo, quindi cose. Capiamo tante cose. Per esempio, secondo me io ne ho prese troppe poche di sberle. Vedi? Vabbè, insomma, alle 10:23 minuti, 800. Ne ho presa una sola e ancora me la ricordo. Che pensate voi? 800 24 00 24. Tra l'altro, con noi c'è un signore, Giovanni Colasante, che salutiamo e ringraziamo, perché è diventato famoso qualche anno fa per una vicenda per la quale non avrebbe mai voluto diventare famoso. Colasante, benvenuto. Buongiorno. Era il 2011, quindi ormai affondiamo a qualche anno fa. Lei era in Svezia in vacanza e fu denunciato per aver strattonato suo figlio in pubblico e anche si è fatto un po' di carcere, cioè è stato arrestato proprio. Sì, sono stato 3 giorni in carcere. 3 giorni in carcere, ma perché? Cioè, perché in Svezia è, voglio dire, è considerato un reato molto grave. Cioè, cosa ha fatto? Aveva dato uno scapaccione? Che aveva combinato? Sì, io avevo preso mio figlio per il papero della giacca e l'avevo strattonato sostanzialmente. L'avevo rincorso e strattonato perché temevo che si potesse insomma andare ancora in pericoli lì per Stoccolma. In realtà ci furono dei testimoni che raccontarono una versione un po' differente, dissero che l'avevo sollevato da terra, l'avevo picchiato. Ma che stava facendo si sente suo figlio? Male, il cellulare. Sì, mi sente male? Sì, adesso la sentiamo meglio. Che stava combinando? Mio figlio faceva dei capricci, a un certo punto la sua ribellione sfociò cominciò a correre. E io temevo che potesse andare per essere investito, lo rincorsi e lo tirai per la giacca e la testa si reclinò un po' all'indietro, probabilmente presi i capelli, arriva lui in quel periodo. Il problema è che con i testimoni fu messo addirittura in carcere 3 giorni, ma con quale accusa? Maltrattamenti gravi. Ma voi eravate costernati, immagino tutti, compreso suo figlio, sua moglie, tutti basiti. Beh, io ricordo la vicenda di cronaca. Io pensavo si potesse risolvere velocemente, perché questi qui da lontano cominciarono ad inveire contro di me e poi la faccenda sembrava finita lì. Io dissi sono il padre, però in realtà mentre ero seduto in una pizzeria vidi questi stessi signori che mi indicavano attraverso la vetrina e avevano a fianco le poliziotti. Ma quindi lei ha subito un processo in Svezia? Sì, sono dopo 3 giorni. Dopo essere stato 3 giorni in carcere, ero assistito ovviamente dall'ambasciata. E ha dovuto pagare quanto? All'epoca la multa fu 720 euro, che però non ho mai pagato perché alla fine il giudice sentenziò che il reato che avevo commesso non meritava il carcere, e quindi quella cifra andava a compensare. Ma l'ha difeso un avvocato locale? Perché immagino sì, che sì, un avvocato locale. Allora, il reato di cui parla, lo diciamo a beneficio dell'ospite che ci ha raggiunto e che salutiamo, è un ritorno, è uno dei pedagogisti più famosi in Italia, tra l'altro è uscito con un libro dal titolo Non è colpa dei bambini, edito da Burr, è Daniele Novara. Buongiorno professor Novara. Buongiorno a tutti. Allora, sta parlando Giovanni Colasante, non so se se lo ricorda, 2011, ricordo, arrestato in Svezia, perché strattonò suo figlio. Qui stiamo parlando di questo tema, cioè se lo scapaccione possa essere educativo oppure no. Ci dice Novara? Un bello scapaccione fa bene, si cresce più sani, oppure è proibitivo? No, guarda, io ho scritto un libro che si intitola Punire non serve a nulla, e quindi assolutamente la mia posizione, che è una posizione pedagogica e scientifica, è contraria. Ecco, io penso che le punizioni sono solo, come dire, un retaggio del passato, di un certo sadismo che c'era da parte dei genitori nei confronti dei figli. Oggi viceversa sono più legate alla fragilità dei genitori, perché sono molto emotivi, a un certo punto si imbestialiscono e incominciano a far girare le mani, oppure viceversa, a togliere questo, a togliere quest'altro. Ecco, e insomma, diciamo che nel passato col suo sadismo ha funzionato, nel presente con questi eccessi emotivi può. Però arriva, guarda, Veronica Gentili ci ha detto: io non ho ricevuto abbastanza sbelle. Messaggi ce ne sono, benedette le sculacciate di mia madre che mi ha reso uomo. Guardi che. Ma perché lei ritiene che facciano proprio male? Cioè, qual è l'effetto, secondo lei, controproducente che ottengono? Guardi, non solo fanno male le sculacciate, cioè diciamo il male è legato alla mortificazione, ecco, diciamo che nessuno cresce con la mortificazione, non so se mi spiego, ecco, questa idea che mortificando, bocciando, punendo, eccetera, eccetera, no, si cresce diritti, ovviamente è un retaggio archeologico, ecco, di un'epoca abbastanza oscura, dove appunto i bambini venivano fasciati, non so se mi spiego, avete presente come le immagini dei bambini fasciati per farli dormire, liberiamoci da questa idea. Però quando a volte ci sono dei momenti in cui il bambino diventa veramente faticoso da gestire, lei che metodo alternativo propone? Guardi, io i metodi miei sono di carattere educativo, pedagogico, ne ho parlato in tutti i miei libri: gestire i conflitti con gli adolescenti, gestire le regole con i bambini, addirittura ho inventato una nuova tecnica che si chiama il silenzio attivo, molto efficace con i bambini tirannici. Invece Scusi, non ho capito. Silenzio attivo. Il silenzio attivo. Cioè? Che sarebbe, ci spieghi? Non si parla col bambino. Silenzio attivo è proprio una tecnica per cui invece di parlare, come fanno tantissimi genitori di oggi, molto emotivi, molto impregnati, il bisogno di stare in contatto con i figli, si stacca, no? La comunicazione, magari per 5 minuti con il bambino piccolo, tirannico, disposto, anche 10, anche 15, si stacca magari per una mezza giornata col preadolescente che vuole esagerare nel suo essere preadolescente, e quindi si ristabilisce. Cioè, diciamo, tradotto sarebbe come se non gli si parlasse più per dargli un segnale. Sa cosa, sa cosa farebbe mio figlio? Diceva: oh, meno male, fammi giocare con Nintendo per 4 ore senza rotture. Tra l'altro, il silenzio attivo è una tecnica che ho sempre usato anche le mie fidanzate con me. A un certo punto smettono di parlarmi. Questo è un classico. Noi donne nel silenzio attivo siamo maestre. Io faccio dei corsi di silenzio attivo. Il nostro Leonardo Manera, anche silenzio passivo, se per questo le donne fanno proprio. No, è attivissimo, perché dentro c'è la condanna, ti rendi conto di quello che hai fatto? Per tornare a bomba, Daniele Novara, no, perché il tema da cui siamo partiti è che in Scozia vogliono mettere proprio l'abolizione per legge della sculacciata. Ci sono tanti paesi dove è vietato, insomma, il signor Colasante l'ha scoperto sulla propria pelle, no? Ma le sembra giusto addirittura arrivare a arrestare una persona, perché adesso non vogliamo ripercorrere, perché ha strattonato il figlio in pubblico, 3 giorni di carcere, processo. Vabbè, quello che è successo al signor Colasante è una cosa esageratissima, per carità, non, non ha nessun senso, però che ci sia una legge che protegge i bambini dalle violenze intrafamiliari, visto che c'è già la stessa legge che protegge i bambini dalle violenze scolastiche, ecco, mi sembra una cosa di buon senso. Non vedo che logica ha il fatto che l'insegnante viene condannato se ha menato un bambino a scuola e il genitore non venga, giudicato allo stesso modo se lo stesso comportamento avviene tra le mura. Guarda, questo è vero, però confondere uno scappellotto che può essere una sculacciata, un gesto che è simbolico in realtà, che non procura dolore fisico, e invece il fatto che ci siano realmente dei maltrattamenti e quindi dei bimbi minori che vengono picchiati sono due cose ben diverse. Si rischia di fare un calderone unico, no? Sentiamo un attimo Giuseppe da Vicenza che ci chiama. Giuseppe, che vuol dirci lei? Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la vostra trasmissione, perché è veramente fantastica, insomma. Va bene Giuseppe, però la borsa incombe, lei non lo sa, ma la borsa ci guarda, ci dica. Aspetto. No, ci dica velocemente. Se non fa in prezzo, in fretta diamo uno scappellotto, prego. Niente, il problema è uno solo. Innanzitutto fare i genitori è un grande lavoro. E non so chi può dire chi di saperlo fare o meno. Ora, confondere una sculacciata con un reato per il proprio figlio, secondo me stiamo andando nell'esagerazione più... Lei di quelli che dice la sculacciata non fa male, non ha mai fatto male a nessuno. No, non fa male. Poi se conoscereste le mie due bambine meriterebbero anche di più, però... ma è questo, invece il professor Novara direbbe no, professore. Certo, guardi che la legge contro i maltrattamenti c'è già. Quella esiste, stiamo parlando proprio di una legge che impedisca le punizioni fisiche, e anche questa nel resto del mondo c'è già, e l'Italia è in ritardo. No, oltretutto no, diciamo che ne stiamo parlando oggi anche perché ieri sembra che in Scozia, che era uno dei paesi in cui ancora non c'era, stia per diventare legge, quindi tutti gli schiaffi, sberle stiano per diventarlo anche lì, e si è riaperto il dibattito per questa ragione. Esatto. Comunque, in ogni caso, noi facciamo così, chiamateci all'800 24 00 24, dobbiamo andare alla borsa, ma voglio ricordare il libro di Daniele Novara, se volete, Non è colpa dei bambini, è uscito proprio da pochi giorni per Burr. Ringraziamo anche Giovanni Colasante che ha rivissuto un episodio per noi, anche se so che non è un episodio piacevole per il quale uno viene chiamato ogni tanto a dire... Secondo me noi potremmo assolverlo e dargli una patente non richiesta di defurbizzato, proprio senza pensarci due volte. Andiamo alla borsa e poi rientriamo. I funamboli. Allora, sono le 10:41 minuti ormai. Cara Veronica, tu non puoi vedere qui negli studi di Milano. Vedo solo che fai dei gesti inconsueti. Infatti, perché è qui in regia siamo stati invasi da una scolaresca di ragazzine e ragazzini di, credo, quinta elementare? E sono stati tutti sculacciati da Alessandro Milan. No, dovete sapere, care bambine e cari bambini, che abbiamo appena parlato del tema. Chiedigli. È giusto dare una sculacciata da parte dei genitori ogni tanto? Allora facciamo questo esperimento sociale. Che dicono? Voi pensate, non si sente, quindi potete urlare, fate sì o no con la testa. La domanda è giusto che i genitori diano ogni tanto una sculacciatina ai genitori? Fanno tutti. Alcuni hanno il pollice in alto, dicendo... Quasi tutti dicono di sì, hai visto? No, quasi tutti dicono di no. Chiedi se restano traumatizzati, cioè se secondo loro è una cosa gravissima che li sciocca. Va bene, è come il telefono senza fili. Allora, se ricevete una sculacciata, venite, conoscete il termine, traumatizzati. Tu non cambiare la risposta però, Alessandro. Traumatizzati? Sì, pollice in alto. Sei tu che non la conosci, loro sì che la conoscono. Quindi bocciamo le sculacciate? Ma c'è l'insegnante dicono che invece dice di no. Ma anche alcuni bambini dicono di no. No, attenzione l'ora. Però, professoressa, no cosa vuol dire no sculacciate? Mai. Ha detto ogni tanto sì la ogni maestra. Tanto sì. Leonardo, ogni io tanto non mi fido di maestra. Milan, mi dici cosa dicono i bimbi, maestra, per favore? Così, la maestra. Vedo la maestra che è una bacchetta con la quale dà delle bacchettate ai bambini sulle mani. È straordinario, veramente. In radio, cari bambini, l'avete capito, non si vede come in TV. Però salutiamo tutti i nostri ascoltatori, salutiamo questa scolaresca. Questo è un popante che piange perché tu lo stai malmenando. No, mai. È il momento però dei nostri defurbizzati, le persone che hanno fatto... Bambini, non ascoltate questa parte della trasmissione, perché invitiamo persone che raccontano qualche volta in cui hanno fatto i furbi. Come la Befana abbia portato, esatto, loro solo carbone per tanti tanti anni, finché non sono arrivati qui. No, sentite, sentite questa. È Giulia, buongiorno Giulia. Giulia ci ha scritto, benvenuta. Buongiorno. Giulia, buongiorno. Non lo sai Giulia, ma ti stanno ascoltando 30 bambini di quinta elementare. E quindi racconta cosa hai fatto un po' di anni fa. Quelli sono terribili. No, mettici una mano sulla coscienza Giulia, che se poi ti imitano... Cosa hai fatto Giulia? Allora... No, guarda, un giorno capitati per caso a Torino, dovevamo aspettare un'amica, io e mia figlia aveva, le mancavano 3 mesi a compiere 14 anni, tutta fiera, e niente, ho detto, come gli faccio passare il tempo? Beh, la porto a vedere Superga, ho detto, andiamo a Superga. Così. Bello, ci... giusto, a vedere dove è il grande quella... Torino. È... Facciamo anche... qualcosa, un giro, ci annoiavamo. Arriviamo lassù, facciamo tutto il giro fuori, poi a un certo punto entriamo dentro, voleva salire sulla cupola. Per salire sulla cupola io avevo già visto da lontano la cassa che c'era scritto un prezzo, poi c'era scritto metà prezzo a quelli di 12 anni. E tua figlia ne aveva già 13? Ne aveva già 13? No, quasi 14. Ne stava facendo 14, era per il compleanno. Sì, no. Poi magrina, piccoletta. Sei arrivata no? La cassa, quindi... quanti anni ha la figlia? Io ho fatto il mio biglietto, poi mi fa, e la figlia quanti anni ha? Gli ho detto 12. Gran classico. E ho preso il biglietto, tutto a posto, siamo andati su, posto, abbiamo fatto tutto il nostro giro. Allora, cari bambini che siete lì in ascolto, mi raccomando, anche dopo aver compiuto i 14 anni, mentite tutti dicendo di averne ancora 11, 12. No. Quindi, Leonardo lo fa sempre con suo figlio Beniamino. Sempre, ed è per quello che adesso in tanti posti non si chiede più l'età, ma si misura l'altezza del bambino. Vabbè, ma se io ho un figlio di 10 anni, uno spilungone, cosa devo fare? Niente, deve pagare lo stesso. Il peggio è venuto dopo. Cioè? Il peggio è venuto dopo. Si torna a casa, sembrava tutto a posto. Il mattino dopo mette la cioccolata nel latte, mentre girava guardava dentro la tazza. Cosa? Aveva il muso. E passa. Il giorno dopo ancora di nuovo. E che ho detto, successo? Ma che cavolo ha sta bambina con me? A un certo punto gliel'ho chiesto, gli ho detto, senti, ma dimmi, ma cosa ti succede? Cosa c'hai? Perché sei di buon umore, di cattivo umore così? Lei mi ha guardato, mi ha detto, ma mi ha guardato di brutto proprio, arrabbiatissima. Mi ha detto, guarda, è una vergogna, te sei l'unica mamma che non si ricorda quando è nata sua figlia. Vabbè, ma bisogna, ma però Giulia, per farlo bene, fatti servire, come no, si per farlo bene bisogna e avvicinarsi a alla dare cassa le patenti di defurbizzati, e dire, capito? Prima, cara bambina, guarda che adesso dirò che hai 12 anni. Intanto scusate, con la mano saluto tutti i nostri studenti che se ne vanno dalla regia. Ciao, ciao. Disgustati, ciao. Indignati. Buona scuola. Ciao, no, ciao. Sì. Pensa che da lì in poi tutte le volte al cinema, alle giostre, da qualche parte, quando si entrava, quando io andavo, mi avvicinavo alla cassa, mi guardava distorto, come dire, guai a te se dici, se lo rifai. Niente, ha rovinato il rapporto con sua figlia ormai, in modo tutto, così tutto per sempre, tutto per uno sconto di 2-3 euro, cioè, esatto, praticamente compromesso. Compromesso. No, ma no, perché lei è rimasta convinta, guarda che adesso ha 20 anni, ma io non ti ha creduto ancora è convinta che io non mi ricordo quando che ti fossi dimenticata il suo compleanno, no, vedi? E la tua punizione l'hai già avuta. Vabbè Giulia, ti diamo una nuova patente di madre, assolutamente, con una memoria di ferro, con il nostro defurbizzata. Oh, così. Grazie così Giulia, fatta davvero, per essere stata con noi. Scriveteci a funamboli@radio24.it se volete essere defurbizzati. Ma scusami Milan, tu dovresti fare un pronto con tutte le come farle le furbizie, capito? Come realizzare la vostra furbizia in maniera oculata? Ma perché le sai tutte? Ma perché mai preso? Ne sai una più del diavolo. Andiamo al traffico, va. I funamboli. Milan, infatti, si vede con le leggi di oggi e con i metodi di oggi come sono ben educati i ragazzi che ci sono in giro. Ma quando i bambini corrono per il ristorante posso fargli lo sgambetto o vietato? Ma se andiamo in gol, se dice mazze e padella facciano creature belle, quindi date mazzate e basta, oltre che... No. Signor Montessori, questo... salutiamo il signor Montessori. Questo è un suggerimento anche di natura estetica, cioè se li corchi di botte ti vengono esteticamente più gradevoli. Però ragazzi, lo scambetto mentre uno corre al ristorante è straordinario. Bisogna dire che i bambini a volte al ristorante sono veramente insopportabili. Fate un po' i Bonucci se lo incontrate. Vabbè dai. Allora, le 10:40. Ma parlare di calcio perché sei pesante. Tu e il poeta serbo Kalinic, sei pesante. Kalinic, com'è il poeta serbo? Che è croato poi? Si chiama Kalinic. Kalinic, c'è vabbè, quasi, dai, l'accento. Kalinic! Nicola Kalinic con l'esterno fa 4-1. Tutto con la K, Nicola c'è una, con la c'è K. C'è una frangia Kalinic di critica letteraria che è solito chiamarlo Kalinic. Va bene, per una questione proprio di gusto. Allora, è tornato, cara Veronica, il galateo migliore del mondo, e a snocciolarcelo è venuto da Parpo. Sì, buongiorno a tutti, perché mi sono reso Peter. Conto, buongiorno signora Gentili. Salve. Mi sono reso conto che insomma le persone non conoscono più le regole del galateo. Allora abbiamo messo in piedi a Parpo questo corso di galateo contemporaneo a test, diciamo, facendo delle domande e capiamo qual è il comportamento giusto secondo galateo. Quindi cominciamo con la prima. Nello scompartimento di un treno, quale tra questi comportamenti è più educato? Fumare ma solo sigarette nazionali? Chiedere di mangiare un panino intravisto nella borsa del vicino, ma la risposta esatta è togliersi le scarpe, ma solo se sono seminuove. Seconda. Ma così adesso ci fornisce già la risposta. Adesso non possiamo neanche più dire la nostra, è finito. Io avrei scelto B, per esempio. Basta. Però vabbè. Quando si è invitati a cena da conoscenti, ci si presenta solo se la padrona di casa è carina, si porta un cane per fargli mangiare gli avanzi, ma la risposta esatta è... si arriva già al tici per non consumare altro vino. Io avrei portato questa cane, volta però per io concordo. Io secondo avrei portato me il cane. Bambino, già però. Bello sul bicchiere così, no? Balliscia. Come si mangiano gli spaghetti? Con la forchetta che si usa anche per tagliarli, con risucchio ma solo in caso di spaghetti lunghi o bucatini, ma la risposta esatta è... anche con le mani ma solo in caso di spaghetti al burro. Perché non ti sporchi le dita col sugo, quindi. Ma no? Che mangia mai gli spaghetti al burro? Certo. No, poi con le mani restano Parpo, pulite, ovviamente forse. Col burro. In occasione di un colloquio di lavoro, non è corretto. Presentarsi più di 2 ore dopo l'orario fissato, presentarsi in ciabatte, ma la risposta esatta è... portare del vino per farsi bello con l'esaminatore. C'è chi porta il vino perché dice così almeno beviamo insieme. Corruzione. Però io avrei scelto là, 2 ore secondo infatti, me. 2 ore secondo me è un po' sono giuste, io più o meno così faccio. Prima di alzarsi da tavola, al termine di un pranzo formale. Come è opportuno comportarsi? A. Esprimere la soddisfazione per il pranzo con un ruto prolungato. No, dai. B. Battersi le mani sul ventre. Ma la risposta esatta è... portarsi a casa un piatto come ricordo dell'allegra libagione. Ma perché uno si batte le mani sul ventre? No, battersi la mano sul ventre è come una danza, no? Non è male. Ma perché? Cos'è batte? Al tamburo? Un gesto di soddisfazione. È soddisfazione, capito? Diciamo, perché hai mangiato bene. Anche il rutto per... manifesti il tuo compiacimento. Come si mangiano? Come si mangiano i legumi? Con le mani uno per volta, schiacciandoli con un pezzo di pane, ma la risposta esatta è... la risposta esatta non arriva. Attenzione, mettendoli in fila sul coltello, metti tutti i legumi e poi ti metti tutto il coltello in bocca e te lo succhi. No, dai, è un innovatore, Peter. Qui c'è. Nell'incrociare una piccola barca a vela, un grosso motoscafo deve A. non cambiare rotta e passare anche vicino, B. passare il più vicino possibile per divertire i passeggeri del motoscafo. Ma la risposta esatta è passare vicino alla barca a vela e soffiare sulla vela, così dai un aiuto, dai una mano. Questa è buona, questa è anche altruista, vedi? Siamo alle ultime. Durante un pranzo, tra una portata e l'altra, si sta in silenzio assoluto per non disturbare il cuoco? Si sta in silenzio assoluto guardando il telefonino ma mostrando video piccanti ai vicini di posto? Ma la risposta esatta è si offre da bere ma solo a chi è introverso, che magari fatica a socializzare e tu gli dai del vino. Non è male. Questa è giusta. Questa è proprio perfetta. Siamo all'ultima. A cena, come si presenta il gelato? duro di congelatore, mezzo sciolto, quasi tiepido. Ma... per non disturbare chi ha denti sensibili, ma la risposta esatta è... collocato in una ciotola dalla quale tutti possono scucchiaiare. Ma no, questa standing ovation. Io sono però, d'accordo. Guarda che tra ovation. Amici si fa così, vaschetto certo. In mezzo e via. Ma chi mai sono le regole messo nella del, del galateo contemporaneo, scucchiaiare. Scucchiaiare. Malateo non era male, però. Malateo. Dobbiamo salutare Elisabetta Fosconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Bancaldi in redazione, Peter Bescapè in regia e chi c'è lì? C'è Alessandro Chiappini? Sì, caro. Ah, in regia a Roma. Ebbene allora, sì. I funamboli tornano domani alle 9, puntuali. Vi annuncio che da domani io pratico il silenzio attivo in radio. Ottimo, ottimo, ottimo. Zitta. Kalinic! Nikola Kalinic con l'esterno fa 4-1.